per una legge che riconosca e tuteli il settore della cultura e dello spettacolo, per un reddito di discontinuità, per la sicurezza sul lavoro. Queste sono alcune delle rivendicazioni che da tempo le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo stanno portando avanti all'interno delle loro lotte e battaglie, che sono nate all'interno del contesto pandemico, ma che purtroppo vanno a denunciare condizioni che in realtà risalgono molto più indietro nel tempo. Per parlare un po' di questa condizione rispetto al welfare, alla tutela delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, siamo in collegamento con Andrea Cegna, giornalista e lavoratore dello spettacolo. Ciao Andrea, benvenuto a Radio Città Fujiko. Grazie mille per avermi richiamato. Prima ho nominato tre rivendicazioni, quindi per una legge che riconosca tuteli il settore della cultura e dello spettacolo, per un reddito di discontinuità, per la sicurezza sul lavoro. Dicevo che sono alcune delle rivendicazioni che poi vengono portate avanti da questa categoria di lavoratrici e lavoratori. Ti chiederei meglio di innanzitutto spiegarci che cosa significano e soprattutto da che lotta nascono. Allora, diciamo, intanto c'è una questione, no? Il mondo dello spettacolo è un mondo che non è riconosciuto da nessuna categoria. Per esempio, anche se noi pensiamo alle categorie sindacali, cioè esiste, faccio esempio, la FIOM, che segue la categoria degli operai, no? Non esiste una categoria che direttamente segue i lavoratori dello spettacolo. Per esempio, sempre per usare come paragone il più grande sindacato d'Italia per iscritti, la CGIL, sono seguiti da lavoratori dell'SLC, che praticamente sono i lavoratori della comunicazione, e va da chi lavora nelle poste appunto a chi lavora nello spettacolo e nella televisione. Quindi l'assenza di un settore fa sì che manchi una legge nazionale che lo tuteli e delle regole che lo difendino e che lo tutelino. Per esempio, quando si allestisce un grande concerto, concerti negli stadi ma nelle piazze, la regolamentazione che si utilizza è quello del cantiere edile mobile, nel senso lo stesso che si usa per dire nelle autostrade quando si fanno dei lavori autostradali. Questo ci fa capire intanto la condizione di assurdità in cui migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici lavorano. Poi l'altra questione da cogliere è che è un settore molto ampio, che va dai facchini ai tecnici nelle loro varie forme, fino agli artisti. Quindi un settore che ha una molteplicità anche di professionalità interne e che insomma non riescono a trovare, o meglio, nella legislazione non c'è un qualcosa che li mette in fila e che li tuteli. A questa va aggiunta una terza questione, ovvero questo è un settore che, pur non essendo riconosciuto, esiste ed è stato utilizzato, questa è la mia lettura che propongo, per sperimentare forme di precarietà basate sulla passione, nel senso che molte e molti delle persone che si avvicinano e vogliono lavorare in questo mondo lo fanno su una passione, uno perché sono magari giovani o giovani artisti che vorrebbero poi fare i musicisti nella vita, o chi perché gli piace molto la musica vorrebbe iniziare a lavorarci e quindi, non so, che ne so, viene coinvolto per fare le grafiche, per scaricare i camion, per allestire il catering, per fare il runner, e in tutta questa cosa qui si specula sulla passione. Molto spesso gli si promette che iniziando così gratuitamente lavorerà, dall'altra parte gli si promette di essere pagato in visibilità e così via. E la cosa drammatica e tremenda è che ci sono anche esempi di iniziative che investono milioni, se non di più, nello spettacolo, che sfruttano poi queste persone. Basti pensare a quello che è successo con il Jova Beach Party prima della pandemia, no? In cui si chiedeva a persone di garantire di fatto la pulizia dell'area in cambio di un panino, una maglietta, di poter quindi vedere il concerto gratuitamente nel nome del green, o come per esempio mi pare sia Umbria Jazz o Pistoia Blues, non mi ricordo, uno dei due, che ha fatto quest'anno questa, essenzialmente ha lanciato questo concorso, disegna tu il logo dell'edizione 2022, chi vince verrà pagato in visibilità, però su quel logo verranno fatte magliette, venduti gadget, eccetera, eccetera. Questo ci fa capire che la speculazione sulla passione e sulla necessità anche di lavorare in questo ambito è uno dei fattori che lo determina. Dette queste tre cose, da quando è iniziato lo stop della pandemia, migliaia e migliaia di lavoratori che si sono trovati senza lavoro si sono organizzati e hanno provato a fare qualcosa per cambiare la situazione. In ultimo c'è questo appello che è stato firmato ormai da una tantina di realtà collettive e da oltre 500 persone, che invita e spinge a mobilitarsi il 1° maggio affinché appunto venga realizzata una legge che riconosca questo settore, una legge che si basi almeno su due questioni: la sicurezza sul lavoro, che vuol dire sia sicurezza di lavoro e sicurezza sul lavoro, perché vediamo troppe volte morti giornalieri sul lavoro, e sappiamo che anche nel settore dello spettacolo negli anni ci sono stati morti, ma anche tanti infortuni legati agli orari stressanti, alla necessità di lavorare il più possibile perché poi ci sono periodi di blocco, eccetera, eccetera, e a un reddito. Certo, la cosa migliore sarebbe ragionare su un reddito universale di base, come si direbbe, che tuteli certo. Lavoratori e lavoratrici, ma in assenza di un dibattito pubblico così profondo, il settore almeno propone che ci sia questa cosa del reddito di discontinuità, un po' sul modello francese, ovvero che chi fa questo tipo di lavori, per cui non può finire su un palco tutti i giorni come gli artisti, ma non è neanche giusto che neanche i tecnici lavorino tutti i giorni facendo centinaia di chilometri e muovendosi, rischiando appunto in sicurezza, ma abbiano i giorni per studiare, fermarsi, eccetera, eccetera, che è quindi un reddito che garantisca la discontinuità del lavoro. Diciamo che questo, spero di essere stato chiaro, in sintesi un po' tutto il portato che c'è dietro a questo documento e questo appello sul 1° maggio. Certo Andrea, io direi che sei stato chiarissimo e hai anche risposto a tutte le altre domande che ti volevo fare rispetto anche alle mobilitazioni che ci sono state. No, ma perfetto. Ti chiedo, guarda, solo un'ultima cosa rispetto anche un po' a rilanciare la giornata del 1° maggio e anche a rifare un po' magari il filo di quello che è successo, non in questi ultimi 2 anni, perché chiaramente per questioni di tempo non lo possiamo fare, però se hai voglia di raccontarci rispetto a questo appello come nasce e quali sono stati i movimenti dal contesto pandemico fino a poi la manifestazione che ci sarà il 1° maggio. Allora, diciamo che il primo grande movimento che si è formato è stato quello sotto il cappello del logo Emergenza Continua, che ha costruito anche la giornata del 30 maggio 2020, quando in una quindicina di piazze italiane lavoratori e lavoratrici dello spettacolo hanno riversato la loro esistenza e il fatto di essere stati dimenticati. Questo appello è stato formato da una trentina di sigle inizialmente, che poi hanno raccolto tante firme che vanno da l'Arci Nazionale a tante compagnie teatrali, a gruppi musicali, a locali come il Bloom di Mezzago, l'Arci Italiani di Busto Arsizio, eccetera, eccetera, e nasce proprio con l'idea di dire: sono state sbandierate tante volte, i lavoratori della logica dello spettacolo sono stati sbandierati tante volte come feticcio dell'Italia che doveva ripartire. Franceschini a settembre dell'anno scorso ha anche detto che ci sarebbe stata una giornata storica, una legge che avrebbe riconosciuto tutte queste necessità, e invece è l'ennesima legge fuffa che non riconosce nulla e prova a dare altri nomi a delle forme di welfare assolutamente inappropriate, perché non sono universali. L'altra cosa che volevo dire, che mi ho dimenticato prima, che è molto importante, è che dentro uno spettacolo, quando si lavora, ci sono una pluralità di rapporti lavorativi pazzeschi, da chi ha la partita IVA, da chi ha l'assunzione diretta, a chi passa dalle cooperative, ci sono centinaia quindi di posizioni differenti aperte. E quindi quello che serve sono delle risposte universali che non guardano al contratto, ma alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi il 1° maggio l'idea è quella di occuparlo, nel senso che il tema della necessità di un cambio di passo per chi lavora nello spettacolo sia centrale. Perché? Perché spesso il 1° maggio, partendo dal concertone di Roma della CGIL e CISL e UIL, che ci auguriamo tutte e tutti abbia il coraggio di portare questi temi, si basano proprio sul fatto che ci siano persone che lavorano e organizzano spettacoli, da quello a quello di Taranto, a tante altre situazioni. Ecco, se nel giorno della festa che dovrebbe difendere diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, non, durante gli spettacoli non ci sarà una centralità di questi temi e la rivendicazione delle necessità, ecco, significa appropriarsi di un lavoro e sfruttarlo 2 volte. Andrea, direi che sei stato super chiaro, super preciso su tantissime questioni. Io ti ringrazio davvero tantissimo e speriamo di risentirci presto. Quando ci sarà bisogno, sono qua.